Thank you. Thank you. lo splendor della tua corona compier giurasti le tocco mio giurai ebbene a te bei prigionieri e io ti vita domando e libertà torna Ascoltare, oppure giovinerai, saggio consiglio ascolta, son nemice provi sarà, la vendetta non è il cuore, a più docilo il perdo. Non resta speranza ai vinti. Almeno arra di pace se curta, tra noi resti col padre Aida. Al tuo consiglio cedo, di se curta di pace un miglior regno io. Yeah. Distruggi per Radames, Etana, mi l'attendi, nei parola figlia e tua rivale, razza infame, aborrita, e a noi fatale. Superio stupio, domonus rafella. Di poter di lei, no. Solo bravi la possente rivale, thank you.

Scorrerà il potere. Sacerdote, Yeah. ego solo, io stessa lo gettai. Una che intreco atroce gelosia, che la sua morte Roma West! Roma West! sovra me si chiuse. Ecco la tomba mia, del dì la luce più non vedrò. Una visión, no por la mano esta. Oh! 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。